ci sono più. Ma attenzione, che dobbiamo alzare la voce quando molti scelgono un prudente silenzio. E quando una parola terribile oggi nel nostro paese è la neutralità. Quanti sono diventati neutrali? E guardate che quello che sta succedendo, no, con le sue semplificazioni non ci può lasciare indifferenti. Queste forme di razzismo che vengono abilmente legate, dicendo non è razzismo, ma è puro razzismo. Ma che cosa deve essere? E allora, questa mattina qui si sono saldate la vostra vita, le vostre storie, le vostre fatiche, le vostre speranze, i vostri dolori, alle vostre. Ma vi prego, nessuno si senta a posto e nessuno si senta arrivato. Perché questo momento storico in cui tutti, chiunque, ci deve essere uno scatto dentro di noi. Quello che ho sempre chiamato il morso del più. Perché non dobbiamo dimenticarci, e voi ve lo insegnate, che le leggi devono tutelare i diritti, non il potere. Perché alcune leggi ultime tutelano il potere, non i diritti di tutti. Le leggi devono promuovere la giustizia sociale, non le disuguaglianze e le discriminazioni. Storia di ieri, certamente non siamo a quei livelli, non siamo a quei livelli, per carità. Non vogliamo semplificare. Ma attenzione a cosa sta succedendo. Vi consegno due dati, solo due dati, che vi prego di non dimenticarvi, sono molto seri. Sono molto seri. Però il segnale dove anche l'Europa sta andando in questo momento. Perché la Commissione preposta ha previsto per il periodo 2021-2027 un aumento del 2.200 miliardi in più del Fondo di Difesa Europea, che passa dallo 0,59 a 13 miliardi per il finanziamento, no? O per la tutela dei nostri confini, per la sicurezza e per l'industria militare. Vi prego, andate a vedere sui siti i dati. 2.200 miliardi. Ecco. Si continua, no, a erigere muri e a riempire arsenali che rappresentino questa scelta, questo investimento, la risposta a una tragedia che nasce dalla dissennatezza, scusate, non c'è un'altra parola, dissennatezza politica, e dal cinismo, scusate, il cinismo economico dell'Occidente ricco e progredito che fa questa scelta. Ma attenzione, la fondazione Abbettieri, i poveri, gli ultimi, stima oggi che siano oltre 11 milioni di persone in senza tetto, insomma. E noi abbiamo visto in casa nostra quanti sono cresciuti. Ma tutto questo che si allarga, dobbiamo dircelo perché dopo è troppo tardi, è il frutto di misure suicide che in 10 anni hanno tagliato 2.300 miliardi di euro dai fondi per le politiche sociali e destinando al contempo 3.000 miliardi di euro per il salvataggio delle banche. Portiamoci a casa questi due numeri, scomodi, difficili. Denaro che non va per le politiche al servizio della gente, ma per un'altra direzione. Cresce in modo spropositato la cifra per la sicurezza e per gli armamenti. E allora noi siamo qui. E allora uno non si stupisce quando l'Europol, che tutti sapete molto bene che cos'è l'Europol, quando l'Europol ci dice con molta chiarezza che oggi le organizzazioni criminali presenti in Europa sono 5.000. E solo il fatturato della droga, secondo l'organismo internazionale, che certamente per difetto, per la storia che vi ho già detto, degli armati blindati, in apertura, solo la droga è un giorno 24 miliardi di euro, nei nostri paesi qui, l'Europa. Sono numeri, che però questi numeri li riflettiamo per evitare altri numeri, perché quello che sta avvenendo deve porci uno scatto in più. Nessuno nega che l'immigrazione sia un problema di enorme complessità da governare, con pragmatismo e lungimiranza. Pena, l'inescare forme di disagio, di rifiuti, di insofferenza, ma queste sono misure, purtroppo, che prevalentemente marginano e respingono. E così ostacolano proprio quella sicurezza che dicono di voler garantire. Perché comunità sicura è una comunità che accoglie, che riconosce e integra. Una comunità che dà a chiunque i mezzi per condurre una vita libera e dignitosa. Occhio, c'è molta debolezza in questa ostentazione di muscoli. Abbiamo qualcuno che cambia casacche dalla sera alla mattina per farsi accogliere? No, ma non è solo quel personaggio che è il meno pericoloso, è tutta quella schiera di persone che vanno dietro. C'è molta debolezza in questa ostentazione di muscoli. Ci si accanisce contro la fragilità degli altri per la paura di riconoscere la propria fragilità. Vi prego, ma è proprio riconoscendo la nostra fragilità di persone, fragilità stessa della condizione umana, che si può costruire un mondo più giusto, ripulito da egoismi e da razzismi, da rabbia fomentate e manipolate, da semplificazioni che voi ben conoscete e anche da falsificazioni di verità. Un mondo dove riconoscersi diversi come persone è possibile e uguali come cittadini. Un mondo dove gli altri siano prima che attorno a noi, dentro di noi. Perché in fondo siamo tutti viandanti e migranti su questa terra. Allora dobbiamo dire no all'emorragia di umanità. Denunciamo chi fa il male e chi nel silenzio se ne rende complice. Consapevoli di dover procedere uniti, perché solo insieme il desiderio di giustizia diventa forza di giustizia, e di non perdere mai la speranza, nemmeno quando il cammino diventa particolarmente duro. Abbiamo pregato ieri sera avete portato le vostre testimonianze in questi tre giorni. Abbiamo ascoltato le fatiche e le speranze. Abbiamo colto la profondità di tanti dolori che non sono cancellabili. Ma ci siamo anche detti, e lo ripeteremo con forza, senza stancarci mai, fino all'ultimo respiro della nostra vita, fino all'ultimo respiro della nostra vita, alzeremo la nostra voce per dire a tutti che quei proiettili che hanno ucciso le persone a Volcano o quegli esplosivi, quelle camere che hanno distrutto la vita a gas di tanti uomini, donne, bambini, se quei proiettili, se quelle camere, se le cose che abbiamo sentito non le sentiamo che hanno colpito anche noi. Lo diciamo tutte le volte negli incontri, perché voi avete vissuto tutto questo sulla vostra pelle, quelle ferite. Avete sentito quei proiettili che hanno ucciso le persone a voi care. Ma noi dobbiamo farci moltiplicatori, perché tutti gli altri devono prendere coscienza di questa emorragia di memoria che c'è oggi molto forte nel nostro paese, ma dobbiamo noi impegnarci, ognuno per la propria parte. C'è chi lo fa in un modo, c'è chi lo fa in un altro, ma dobbiamo impegnarci tutti per graffiare le coscienze delle persone e per fare sentire che quei proiettili e che quelle camere hanno colpito anche noi. Hanno colpito qui dentro profondamente anche noi. Sarà ancora questo il grido che alzeremo il 21 di marzo nella lettura dei nomi in oltre 4.000 posti in Italia in contemporanea. E poi, quest'anno, nel Nord-Est, da Paolo, questa sollecitazione di sentire che hanno colpito anche noi. Se no diventa la retorica della memoria, diventano celebrazioni che non ci appartengono. Come avete gridato voi in questi anni nelle scuole, in tutti i contesti che vi hanno chiamato. E l'abbiamo gridato anche in questi giorni, in Friuli, nelle due province autonome di Trento e Bolzano.